Un pochino? Un pochino? Dai, un pochino, no, ma intanto benvenuta per essere ancora qui. Grazie. Questa è la puntata con la quale avremmo dovuto iniziare il mese di aprile, ma da un buon pesce, un buon errore, un buono scherzo, quello che vuoi, è arrivata adesso e va benissimo, ed è una puntata interamente dedicata al mondo di Clelia Sedda. Ah, il fantastico mondo di Clelia Sedda, pieno di un sacco di sciocchezze, che però in qualche modo aprono degli scenari inauditi. Lo dico da me, perché dovresti dirlo tu, però insomma maestra. Inauditi, galattici, spaziali, cozzicissimi. E sono veramente contenta di essere qui. Per entrare meglio nell'ambito del discorso, potremmo forse partire con un brano. Sì. Un brano che magari potrebbe essere quello lì che abbiamo già ascoltato qualche mese fa. Perché no? Forse anche un altro. Quello che vogliamo. Vedremo. Anche via di qua. Ah, ciao Roberta. Ciao Roberta. Bang bang, bang bang, bang bang bang bang, ooh. Bang bang, bang bang, bang bang bang bang, ooh. Pa pa un pu di di down. Pu di tap tap ti di di da di da. Pa pa un pu di di down. Pu di tap tap ti di di da di da. Pa pa un pu di di down. Pu di pa be ba be ba bu. Pu di da bu pu di da da. Che non mi va di rinunciare alla mia libertà. No, no, no, che non mi va di avere peli su questa bella lingua. No, no, no, che non mi va di essere schiava, padrona, cogliona. Poi, perché cosa, per chi? Io non voglio vincolili. No, no, no, che non mi va di ipotecare la mia libertà. No, no, no, che non mi va di uniformarmi alla mediocrità. No, no, no, che non mi va di definirmi, di dirvi con tre aggettivi chi o che cosa sono io. Se lo sa, lo sa solo Dio. E vado via di qua. E vado via di qua. E vado via di qua, di qua. E vado via di qua, di qua. No, no, no, che non mi va di far l'amante o di far la bella sposa. No, no, no, che non mi va di essere santa o peccaminosa. No, no, no, che non mi va di raffinarmi, smussarmi, addolcirmi. O sono questa qua, è così che mi va. Però le suoni in libertà. E vado via di qua. E vado via di qua. E vado via di qua, di qua. Bam, bam, blu. E vado via di qua, di qua. Pistole, mi piacciono le viole. Non voglio autoscafi, ma tutti belli, giovani e non sposati. E poi il contrario di tutto. Sì, poi il contrario di tutto. Chi ti ha detto, chi ti ha detto, chi ti ha detto che sei brutto? Chi ti ha detto, chi ti ha detto, chi ti ha detto che sei brutto? E vado via di qua. E vado via di qua. E vado via di qua, di qua. E vado via di qua, di qua. Ba-bam, boo, bang, bang. Ba-bam, boo, di da. Ta ti di di da di di da pa pa bu di di da di di ta ta ti di di da di di da pa pa bu di di di da u di di pa pu pa pu pa pu u di di pa u di di da di di da di via di qua. Ed era proprio via di qua, senza nessun errore. Senza nessun errore. Chissà se è un errore non andarsene via di qua. Chissà, io sono rimasta, anche tu, Fedra. Tutto sommato, tanto in tanto se va di qua, di là, ma poi qua si ritorna. Oppure qua si rimane. Sai qual è il vantaggio di questo star qua? È che comunque non abbiamo grandissime prospettive, non è che l'arte abbia una grande prospettiva qui in Italia, no? Nel senso che è una cosa, sembra in più, no? Sembra che... In Italia sì, sì, cioè... sì, sembra in più, cioè sembra che sia di quelle cose che uno può coltivare solo se non ha nient'altro da fare, se non deve pagare l'affitto, se non deve pagare le bollette, eccetera. Invece noi a questo ci dedichiamo, no? E forse questo momento di crisi, di fallimento, che è così diffuso, ci permette di essere liberi, di fare quello che ci pare, perché tanto... Quindi in realtà non siamo nate nel momento errato. Boh, chi lo sa, io mi chiedo molto spesso se avessi avuto tutto il riconoscimento delle cose che ho fatto, oppure se avessi potuto essere come volevo essere, chissà se sarei migliore di ora. Credo di no. Cioè, anche incontrare degli ostacoli, no? Dei fallimenti. Guarda, io credo che ti renda alla fine migliore. Non so perché. Fortifica, dà senso anche i tuoi sforzi, te li fa radicare di più. E poi dipende, insomma, se tu scegli di essere schiavo, no, nella vita, allora secondo me devi andartene via dall'Italia, nel senso che la schiavitù non è riconosciuta e premiata se sei bravo, no? Se invece scegli di essere libero, tanto qua non ti si fila nessuno. Cioè, comunque, almeno puoi fare quello che vuoi, magari trovare anche successo in quello che fai. Cioè, per quello che riguarda il mio lavoro, io sono molto motivata perché ho un ritorno, un buon, come si dice, feedback, come piacerebbe a Pasquini, no? Un bel feedback, ecco. Forse ti correggerebbe la pronuncia, che sai, lui è... Come si dice? Bisognerebbe chiederlo a lui. Feedback. Magari poi lo chiamiamo. Ecco, come si dice? Feedback. Feedback, boh. Vabbè, che è un po' una parola orrenda che significa un riscontro, no? Sì, ecco, non mi veniva più in italiano. Vedi l'esercizio che funziona. E quindi, allora, cioè, per me, per esempio, ne parleremo dopo, no? Però l'Error Day, che è un mio delirio, cioè io ho una passione per l'errore che nasce da un passato lunghissimo di studi, eccetera, e poi ritorna invece perché trovo nel pubblico che mi segue un entusiasmo incredibile, e quindi già il fatto che seguo un mio delirio, una mia passione, e ci creda, ma per me è la ricompensa più alta, capito? Ebbene sì. Allora, la co-conduttrice del mese di aprile e in questo momento ospite super mega galattica ed eccezionale della 139esima puntata di Coxo Spaziale è Clelia Sedda, che ha fatto dell'errore un oggetto anche di ricerca. Ma andiamo un attimino a vedere un po' meglio in cosa ci addentreremo nel corso di questa fantastica legale. Ho fatto un errore puntata. Da cosa vogliamo iniziare? Allora, innanzitutto artista, ricercatrice, che ambiti? Ma io avrei voluto fare la ballerina, ovviamente. Sulle punte. Esatto. Anch'io, anche fino ai 6 anni. No, vabbè, è la più bella del mondo, perché è come se suonassi col corpo, no? La mia grande passione è stata sempre la musica, però ho avuto questa idiota idea, no? Di voler essere perfetta, come tutti i bambini vogliono essere perfetti. E io, che sono la tipica donna che vuole toccare il cielo con un dito piuttosto che il pavimento con il sedere, allora guardando in alto, cioè ispirata verso l'altro, ho fatto tante di quelle cretinate incredibili perché io cercavo la perfezione e ho incontrato l'errore. E allora ho iniziato con le gaffe mostruose, con il fatto di voler essere bravissima, e quindi mi preoccupavo, sottolineavo i miei errori per far capire che ero. Tanto che il mio correlatore della tesi di dottorato mi ha detto: ma io non ho capito, tu sei talmente modesta, no? Che rasenti la totale immodestia. E aveva ragione, cioè per non voler sbagliare cercavo di... Beh, insomma, alla fine l'errore lo incontravo sempre, essendo campionessa mondiale di errori, ho deciso di studiarlo, anche perché chiunque abbia a che fare con le azioni, che siano scientifiche, che siano di ricerca, l'arte, la musica, tutto ha a che fare con l'errore. E allora perché non lo guardiamo invece di nasconderlo sotto il tappeto? Anche perché se lo nascondi diventa grande, grande, grande, cresce, come queste montagne. Esatto, montagne, e poi lo paghi 4 volte tanto. Invece se tu lo osservi e lo accogli, no? E cerchi di non ignorarlo, guarda che poi alla fine ti regala delle cose incredibili. Ma veramente inaspettate. Possiamo fare un esempio? Ma la scienza ce ne offre tantissimi, però perché non parliamo di Cristoforo Colombo, cioè quel genio assoluto. Cioè. E guarda, è la mia ossessione. Infatti farò il 12 ottobre il Columbus Day dedicato proprio all'errore, all'errare, perché l'errore errare. L'etimologia di errore è vagare, alla ricerca di, capito? Cioè è fantastico il tema, perché tu non stai ferma a casa, no? Non ti pasci della tua perfetta immobilità, della tua perfetta morte, no, scendi fuori per strada e prendi sbadilate. Ma ti ringrazio tantissimo per aver detto pasci, che non lo sentivo da mo, e mi inebria un sacco. Pasci. E quindi cosa fai? Esci di casa e incontri la vita, e la vita è fatta di quelle cose che tu non puoi prevedere, ma meno male, perché sai quante cose scopri? Cioè l'errore ti fa scoprire tutto quello che tu non sei, quindi ti regala, come se tu fossi uno strumento, ti regala delle corde, no? Che tu poi scopri di poter far suonare, cioè tu diventi uno strumento musicale che non conoscevi. Mi ricollego al corpo strumento del movimento, al corpo strumento, vedi, della musica. Sì, questo... La metafora è sempre quella, non me ne ero accorta. Oddio, come sei sottile, tu Petra. Oh, sì, dimmelo ancora. Sei sottile. No, abbracciami per favore, è morbidissimo. No, va bene, allora, quindi abbiamo capito il tema. Giusto per rimanere entro la struttura, che Pasquini lo sa quanto ci tengo ai ritmi radiofonici, che me l'ha insegnato lui, però insomma, certo. Vabbè. E quindi noi adesso andremo a parlare attraverso il filtro dell'errore, che è comunque questo tema, questo fil rouge che ci accompagna, e noi ci addentreremo in quello che è stato e quello che sarà, e quindi partiremo da quella cosa lì, da lei, sì, e poi da quell'altra, sì, e ci vediamo anche quella, sì, io direi di sì, a me piace quella lì, però dopo la pubblicità, ok, perché prima un po', no? Momento, il capolinea è tutto quel che ho. Mi guardo le mani ancora per un po'. Sale una ragazza, ma è nervosa. Fotografo i suoi piedi, si smuove qualche cosa. Attraversano la strada paio di cinghiali, è ovvio che non sappiano di essere illegali, come mi conferma l'avvocato, che è sceso ma salito perché si è dissociato, solo su un autobus veloce c'è solo la mia voce. Fatemi scendere adesso, l'autobus va piano, ho le forbici in mano. Fatemi scendere, mi sembra un condominio senza fine. Sottaccendo e sottaceto andiamo avanti, pulendo il corrimano con i disinfettanti. Si gira la ragazza e già mi prende male. tasche, oggetti di valore da dare come impegno al controllore. Qui dentro porto solo del rancore, fotografo i tuoi piedi, si sentirà l'odore. E ci vai ma non lo sei. Solos perennesci metafer on aminici profelo on ai passu molto allo sedà perennesci metafer. Allora, proprio come promesso, sì, andiamo con quella cosa là. Sì, dai, andiamo, oh, sì, perché allora è iniziato così, no? Che io, appunto, volendo essere perfetta, qual è la cosa a cui ti ispiri immediatamente? Le Barbie. Oh, ma dai. Sì. Ma possiamo dirlo senza marchio registrato? Beh, però, no, figuriamoci. Reclamizziamo la Barbie. No, anzi la distruggiamo in realtà, perché appunto le bambine spesso hanno come modello quella di una Barbie. Allora io ho pensato, io non sarò mai una vera e propria Barbie, e allora ho scritto questo pezzo su Barbie Barbona, la bambola Barbona, no? Oh, che tristezza, però ha un che di poetico lei, perché la storia è questa. Lei è più o meno così, cioè, prima di tutto, data la sua condizione, parla in parole povere, no? Essendo Barbona. E poi è un giocattolo invenduto. Barbie Barbona è insieme nello scaffale con degli altri giocattoli invenduti, no? Come l'uomo rogna, topo grigio, ciccio sgonfio, e poi la sorella sfortunata della bella addormentata, la brutta sveglia, non so se c'è. Allora, eravamo lì, no? Con questi giocattoli invenduti che impolverati, soli, no? E come da consuetudine dei tempi di Pinocchio, noi giocattoli invenduti invocavamo il Signore, quello con la barba bianca, quello buono, quello a cui tutti rivolgiamo le preghiere. Babbo Natale, ti prego, fammi diventare umana. Bene. Tra tutti i giocattoli proprio me doveva contentare, cioè sono diventata una vera barbona, capisci? Mi sveglio da bambola, da giocattolo, mi sveglio vicino a un cassonetto e di lì me ne capitano di tutti i colori. Quindi questa sagra di Barbie Barbona, no? Che fa di tutto, cioè fa di tutto, vende le spazzole a quelli che sono fermi ai semafori, ce le presenti, no? Le spazzole per pulire i vetri, cioè... Cioè lei li vende ai pulitori. No, quindi questa storia di Barbie Barbona, la bambola Barbona, ha avuto di... Ma le sue spazzole da Barbie? Sì, le spazzole da Barbie. Rosa, esatto. Che erano dentro la scatola di cartone. Che puliscono i vetri meravigliosamente. Sì, poi sai, lei ha queste aspirazioni, tipo quella di fare, non so, un idromassaggio, no? E con cosa lo fa? Oddio. Con le aspirine. Poverina, ecco, si è capita. Quindi va, beh, però le aspirine costano. Sì, certo, però e poi le prende... anche il contenitore, come fa col contenitore? No, è una bella bacinellona, non è tanto grande lei, no? È magra, è bella. E poi è carina perché è vestita con questo, hai presente i cartoni delle lavatrici? I cartoni delle lavatrici? Sì, quelli grandi, i cartoni. Ah, sì, del detersivo. Proprio quelli che servono a contenere le lavatrici, esatto. Allora, lei ha fatto una piccola apertura ad altezza del seno e c'è il balconcino con i fiori, capito? Oh. Con le tendine. Cioè, in testa ha questo bel cerchietto con una bottiglia di plastica e dei fiorellini, no? E anche, quindi, anche la povertà ha una sua dimensione poetica, perché... io me lo sono anche chiesta molto spesso, ma diventare ricchi sembra che sia un modello incredibile, no? Che appartiene a tutti. Invece poi io ho conosciuto persone ricche ma di un'infelicità mostro. Cioè, malvestite, brutte, antipatiche. Cioè, le hanno tutte, non si sa perché. Cioè, non avete problemi di sopravvivenza, avete, non dovete pagare l'affitto, eccetera. E siete infelici? Beh no, scusa. È un affronto. È un affronto. Quello che dovete fare è essere felici, se non lo siete, rendere felici gli altri. Beh sì, e mecenati, no? Mecenati. Almeno sì, cioè se non sei capace di provare niente, regalalo. Invece io ho conosciuto, guarda, il tema della ricchezza è molto interessante per me. Perché questo mi ha dato un'idea un po' di una cosa che non avevo mai contemplato. Cioè, io pensavo che la tristezza e la disperazione, no? Fossero un aspetto dell'umanità, però che avessero una funzione, cioè uno piange per una roba, no? Che ha un senso, sì. Beh, no, in realtà c'è anche la crisi isterica. C'è la crisi isterica, sì, però tendenzialmente magari lo fai da te, da sola, piagnucoli, quando sei in quei momenti di tensione, eccetera. Però tendenzialmente la disperazione, e poi durano pochissimo, i momenti gratuiti. Invece una volta ho visto un uomo molto ricco con una Jaguar, che l'unica volta che l'ho visto piangere era perché il carburatore della sua Jaguar era grippato. Cioè, capisci che la disperazione neanche ha dignità? Cioè, non puoi disperarti perché il tuo carburatore non funziona. Tu ti disperi per altre cose. Invece era una persona legata agli oggetti, perché gli oggetti erano le uniche cose a cui non poteva far male. Interessante. Quindi manifestare empatia nei confronti di oggetti inanimati, no? Quando invece hai, non so, una figlia, una fidanzata che non ti fischi per niente, no? Oppure degli studenti, eccetera. Invece la tua unica preoccupazione è la tua macchina. Ma perché? Cioè, che senso ha? Lei non ti sente, capito? Lei non prova reciprocità per te, la macchina. Oddio. Mi sto immaginando i cartoni animati, sai che c'è la macchina che sorride, effettivamente. Possiamo umanizzarle quanto vogliamo, però secondo me appunto anche momenti di down, no? Hanno una funzione, cioè non sono un errore, tu non puoi essere costantemente su in erezione perché poi impazzisci, cioè devi anche cadere, no? Sali e scendi per poi risalire, per poi riscendere, è tutta una bella parabola che la nostra vita, che ha una funzione, ma anche la disperazione deve avere una funzione. Capisci? Cioè non solo quello di farti scendere, ma anche quello di farti scoprire qualcosa, di farti scoprire che non sei eterno, tipo, che ci sono dei regali meravigliosi che bisogna apprezzare, che non puoi dare niente per scontato. Sono ammaliata. Ah, cara. Ammaliata dalle perlacce di saggezza di Barbie Barbone. Ah, di questa meraviglia che insomma, non avevo idea che la 139esima puntata di Coccio Spaziale, che da domani sarà riascoltabile per sempre su www.coccospaziale.blogspot.com con la mega galattica super ospite Clelia Sedda, nonché co-conduttrice per tutte le puntate di aprile, si potesse rivelare così anche ricca di note e di accordi delicati, cara, sottili, che scendono giù dalle viscerali dal profondo dell'animo. Ma questo bisogna farci i conti, nel senso che il profondo. La morale è: stiamo attenti ai carburatori. Brava. E soprattutto agli uomini che amano le macchine. E a questo potrebbe, perché da un sacco di consigli pratici e utili, esserci d'aiuto la super mega galattica pubblicità delle 7:30. Certo, perché no? Le ascoltiamo? Ma sì, dai, ascoltiamo. E poi, cariche di questi nuovi mondi, ci addentreremo a rilanciare con alte stellicità. Coccio